Vacanza di lago. Capitolo undicesimo. In cucina c'erano già i nonni. Gli odori del forno si spandevano dappertutto, rasserenandola. Martin entrò con un sorriso diverso e coinvolse di allegria i due anziani. Entrambi la guardavano felice e si sorridevano tra di loro, come se risollevati da quell'ansia che li aveva tenuti stretti per tutto il pomeriggio. «Allora, cos'è che ti rende così felice stasera? Sentiamo. Mi auguro almeno non ci siano altre novità. Ho visto un'aquila reale. È stato magnifico e terribile insieme». «Cosa ne sai tu delle aquile?» disse il nonno Alfio. «Sei proprio sicura che fosse un'aquila?» «Al 100%, me lo ha detto Pier. E da quando in qua i pianisti riconoscono gli uccelli?» «Il pianista Pier conosce tutto». «E come mai eri con Pier oggi?» «Non doveva essere a studiare ai corsi, su al castello?» «Ci siamo visti al suo ritorno», rispose Martin. «Mi ha offerto un tè. E poi dalla sua finestra è comparsa l'aquila. Così, dal nulla. Mi sono emozionata un mondo e ho pensato a quanto amo voi e questo posto bellissimo». I due nonni le sorrisero e poi si guardarono con un certo strano imbarazzo, sfuggendosi gli sguardi subito dopo, come se intimiditi. «Piccola», disse la nonna, «adesso vai a lavarti le mani che è quasi pronto e cerca di non chiacchierare troppo come tuo solito, altrimenti poi non mangi più». «Agli ordini, signora», rispose con tenere ironia Martin al fare polemico e pedante della nonna, che intanto aveva già posato il mestolo ed era intenta a preparare le prime porzioni. «Alfio, sei pronto? Togli di mezzo il giornale che sta arrivando il tuo piatto, avanti». «Ecco, ho finito. Vieni pure, Teresa, avanti». Si cenò con serenità. Martin gustava ogni pietanza, sentendosi ormai molto più libera e spensierata della sera precedente. Forse pensava che aver parlato a qualcuno delle sue strane agitazioni e paure fosse stato il rimedio più adeguato per farle svanire, almeno per un po'. «Hai chiamato tuo padre?» le disse il nonno Alfio. «Lo farò più tardi, me l'ero già programmato». «Hai deciso allora cosa dirgli?» I due occhi nonni si guardarono tra loro, adesso piuttosto spaventati. «Preferirei parlargli di persona», disse Martin. «Forse sarebbe stato meglio se papà fosse riuscito a passare di qui. Ormai manca così poco alla partenza. Questi giorni stanno volando. Tra poco sarei già lontana. Che peccato», le disse la nonna. «Dai, nonna, adesso non fare così. E poi lo sai che prima o poi dell'autunno un altro salto lo farò. Dite sempre così. Ma poi dopo le vostre vacanze non vi sganciate più dalla città e non vi si vede più fino all'anno successivo, come tutti gli anni. Ormai ci sono abituata. Comunque, se stasera lo sentissi, fagli almeno capire le tue intenzioni. Insomma, preparalo anche tu al peggio. Capisci cosa voglio dirti? Nonna, perdonami, ma io so come fare. Non devi preoccupartene». La serata si distese nel buio. C'erano molte più stelle quella notte, nello stesso pezzo di cielo, che Martina riusciva a scorgere da seduta sul suo letto, dove ogni sera si accovacciava come un volatile di fiume, addormentato al rumore dell'acqua, nelle sue ultime paure. Aveva ancora del tempo prima che Pier fosse passato a prenderla. Così decise di parlare subito con il padre e lo chiamò. La telefonata fu breve ma intensa. Il padre di Martina aveva compreso dalla voce della figlia che vi fossero alcune leggere esitazioni che non lo convincevano. «Ti sento strana, Martin. Sei sicuro che vada tutto bene? Ti ho detto di sì, ma perché sei sempre così apprensivo? L'unica cosa è che avrei bisogno di parlarti da vicino con un po' di calma, ecco, eh? Parlarmi di cosa? Non è proprio una faccenda che si possa spiegare al telefono, capisci? È al limite. Se passassi a prendermi un po' prima, sei davvero sicura che vada tutto bene? Sei tremendo, papà, questa sera, no? Cosa vuoi che mi sia successo? Sono qui con i tuoi genitori, in un posto così bello. Io volevo solo avere un po' di tempo per stare da sola con te, capisci? Ma non è successo niente. Tesoro, ma ormai mancano solo 4 giorni. Potrei anche anticipare, ma dovrei comunque confermartelo domani. Adesso non so se mi riesce. Ho saputo del violino, papà. Cosa? Quale violino, Martin? Chi diavolo te lo ha detto? Avanti, non fare così, ormai ho saputo tutto, eh. Hai fatto una pazzia, ecco, e questo forse dovresti sapere bene anche tu. Accidenti, ma doveva essere una sorpresa. A volte mio padre mi fa impazzire, glielo avevo anche raccomandato, vatti a fidare. Allora adesso ascoltami, papà, non fare così. E a questo proposito che volevo parlarti, io vorrei solo anticiparti che il problema riguarda proprio questo violino. È una situazione delicata che merita solo un po' di attenzione in più. Tutto qui. Io non riesco a capire. Ma comunque faremo come tu verrai. Cercherò di essere al lago per venerdì e sabato si tornerà insieme a casa, va bene? E intanto ricordo di avvertire i nonni del mio arrivo. Non dimenticarlo. Ti voglio bene, papà. Lo sai almeno questo? Lo so, te ne voglio anch'io, Martin. Mi passeresti la mamma? Adesso non c'è. Stasera è da Justine, serata di gioco. La serata per sole donne che si concedono una volta al mese. Allora me la saluti tu, vero? Aspetta, Martino, aspetta un momento, dimmi la verità. C'è qualcosa che non so. Qualcosa che è successo ai corsi e che mi vuoi tenere nascosto. Ma papà, che cosa dici? Devi solo venire qui, allora capirai tutto. È tutto così semplice. La telefonata con il padre schiarì ancora di più la serenità di Martino. La nostalgia di casa premeva ancora molto forte, dai primissimi giorni, poi era rimasta smorzata e meno invasiva, come uno sfondo costante, che al primo contatto con uno dei genitori si riaccendeva piano, ma di grande, grande, graduale intensità, in particolare quando si sentivano la sera. In lontananza si scorgevano già i fari di un'auto. Si accostavano con calma ai lati del cancello d'ingresso. Martina, sorpresa da quell'anticipo inatteso, si cominciò a preparare in tutta fretta, avvertendo i nonni di aprire per tempo la porta e non far attendere l'ospite. Martina, le disse la nonna affacciandosi con discrezione nella sua stanza, c'è un certo Edoardo, dico bene, dici di essere un tuo amico. Edoardo, fallo accomodare, digli che sto per arrivare, presto. Ma non dovevi uscire con Pier? Certo, che cosa c'entra adesso? Sarà venuto a riferirmi qualcosa, dai, non perdere tempo. Martina si preparava e riusciva a sentire attraverso la parete sottile le voci dei nonni che discutevano con Edoardo. Le sembrò così strana quella visita, ma da un lato era anche contenta, forse sperando in qualcosa di nuovo, che ancora non riusciva ancora ad immaginarsi. Appena uscita dalla stanza, li trovò tutti e tre seduti sul divanetto rosso. Alzarono la testa appena la videro entrare. Ed ecco Martin, la nostra dolce colombina del lago, disse la nonna. Ciao Edoardo, che sorpresa. Ciao Martin. Mi scuso per l'orario, ma mi interessava farti sapere che domani sera ci sono i concerti di fine corso con i migliori allievi di violino, capisci Martin? E suonerà anche lui, disse la nonna, che si era indebitamente inserita per l'entusiasmo infantile. Di formalizzarle quella sorta di invito ufficiale. Allora i corsi non sono già finiti. Oggi è stato il 15° giorno e domani si chiuderà ufficialmente. Potresti approfittare per salutare anche il professor Freshing, se ti va. Avrei voluto dirtelo stamattina, ma poi l'ho dimenticato. A me farebbe davvero molto piacere, Edoardo, ti ringrazio. In quel momento sopraggiunse Pierre. Parcheggiò l'auto e si avviò verso la porta, continuando a girarsi e a scrutarsi la vettura da poco parcheggiata a fianco alla sua, che non aveva mai visto, quella di Edoardo. Ecco Pierre, disse la nonna appena notò di suonare. Pierre entrò con la solita aria di superiorità, immerso in quella scia di profumo intenso e dolciastro, ma concedendo ai vecchi nonni i migliori numeri del suo repertorio principesco e galante. Baciò la mano alla signora Menier sfiorandole appena il dorso rugoso e sottile, in quell'inchino farsesco ma diabolicamente perfetto, effettuato con la chiusura degli occhi, insieme allo sfiorare muto delle sue lunghe labbra. Poi si avvicinò ad Alfio e gli strinse la mano in sequenza con la tenacia rocciosa di un duellante d'altri tempi, e continuando a manipolarselo con qualche colpetto energico, alle spalle grosse e curve. Arrivato a Martin, che era rimasta in piedi di fronte ad Edoardo, Pierre ebbe un attimo di leggera esitazione. Si scurì nel volto, a quell'insolita presenza mai vista in quella casa, forse nel suo territorio. «Questo è Edoardo, Edoardo, lui è Pierre». «Vi conoscete?» disse la nonna, guardando entrambi. Forse ci saremmo visti sopra al castello. È un volto noto, gli disse Edoardo, guardandolo. Ma certo, l'altra mattina. Mi ricordo benissimo, anche tu nella casa del grande Flushing, vero? Disse Pierre. Sono un amatore che ogni tanto sogna di fare sul serio, gli rispose. E sviluppa l'emisfero sinistro, esatto, intervenne Martini con un grande sorriso, che incantò un po' tutti. Pierre la guardò con un'aria stranita e minacciosa. Buonasera, Martini. Vedo con piacere che sei già pronta. Sono prontissima, Pier. Come vedi, sono stata puntuale. Perché non coinvolgete anche Edoardo? Disse la nonna, mentre si accingeva a preparare un vassoio di biscotti inglesi, appena prelevati dalla credenza. Signora, domattina dovrò essere al castello di buon'ora, per via del concerto. Adesso sarà meglio che vada, disse Edoardo. Allora, signori, noi saremo pronti. Ci sono Alex e Bruno che mi aspettano in macchina, diceva Pierre con un'aria impaziente. Non vedeva l'ora di uscire. Allora io vado. E non mi aspettate svegli perché faremo tardi, disse Martini, rivolgendosi ai nonni. Ti lascio la luce piccola accesa di fuori e cerca di non fare troppo rumore quando rientri, disse la nonna, cercando di addolcire i toni in presenza dei ragazzi. Hai parlato con tuo padre? Intervenne il nonno con aria severa. A proposito, dimenticavo. Verrà qui venerdì. Anche per quella questione del regalo, capite? Allora divertitevi, ragazzi, noi andiamo a dormire. Arrivederci, Alfio, disse Pier. Pier salutò i nonni con educazione e con quell'inequivocabile familiarità che Edoardo non aveva ancora con nessuno di loro. Io allora vi saluto e vi chiedo ancora scusa del disturbo, Edoardo, così verso i nonni. Ma figurati. Qui sarai sempre il benvenuto. Peccato che ci si incontra sempre sotto la partenza di Martin. Pazienza, sarà per un altro anno, rispondendo con un sorriso e guardando intanto Martin, che tentava di aggiustarsi i capelli accanto alla vetrinetta opaca della credenza. Pierre intanto era già diretto verso la sua auto, ansioso di andare. Martin era poco più dietro con Edoardo. Allora, domani ci sarai al concerto? Sai che non mi aspettavo che tu venissi. Ci sarai o no? Vedo che sfugge la mia domanda. E tu cosa pensi? Disse Martin. Pensi che io ci sarò? Martin, ci siamo allora? Gridava Pierre in piedi con lo sportello aperto. Sto arrivando, Pierre, un minuto solo e sono da voi. Allora io ci conto, disse Edoardo. Mi aiuterai? Non capisco che cosa c'entra adesso questo. Adesso sei tu che sfugge la mia domanda. Venerdì mio padre sarà qui. Ho bisogno di parlargli, ma sono così agitata, non so veramente come iniziare, non saprei nemmeno che cosa dirgli. Giovedì mattina, Martina, si andrà a correre insieme, io sarò libero e potrò ascoltarti tutto il tempo che vuoi, va meglio così? Martina guardò Edoardo e gli sorrise. La macchina era già in moto e sbuffava accelerazioni spinte e forzate per attrarre a tutti i costi l'attenzione di Martina e sollecitarla. Poi sopraggiunse un colpo secco e ripetuto di clacson nel tentativo di interrompere definitivamente dalla loro discussione. L'impazienza di Pierre. La nonna intanto scostò la tendina dal vetro della cucina e si affacciò furtivamente, sporgendo la sua piccola faccia assonnata verso le luci accecanti dell'auto, le loro sagome informi e ombrate. E si allontanavano, parlando. Osservava la scena con sguardo sinistro, curioso. Poi si ritirò. Arrivo, Pier! Che guaio che sei, però! Vedo che i tuoi amici hanno una certa fretta, io allora ti saluto. Vieni anche tu, Edoardo, dai. Si va a Luna Park. Non penso che si faccia tardissimo. E poi hai la tua macchina. Potresti sganciarti quando vuoi, no? Non preoccuparti, Martin. Adesso preferisco ritornare a casa, ho ancora molto da fare. Ci si vede domani pomeriggio. Passerò io per confermarti l'orario d'inizio e poi potremo risalire insieme al castello, ti va? Allora ci conto. Ti aspetto domani, Edoardo. Martina raggiunse l'auto con indolenza, quasi controvoglia. Allora, Martin, finalmente, questo è Alex e lui invece è Bruno. Ragazzi, questa bambola è Martin. Ciao, ciao Martin, piacere. Vuoi metterti avanti? Forse è meglio, ma solo per le curve, ti ringrazio. La macchina partì e si avviò maestosa lungo il percorso della corriera, quello stesso, che a quell'ora era tutto oscuro. E sembrava irriconoscibile, come un altro luogo. Pier guidava piano, tagliando le prime curve con attenzione e grande misura nelle sterzate, cercando di non scuotere mai troppo lo stomaco delicato della piccola Martine. Il percorso verso il Luna Park si infittiva di grossi alberi, specie lungo il tratto che svicolava dalla zona del mercato alle diramazioni interpoderali successive, che risultavano dissestate e prive di un'illuminazione sufficiente. In auto si parlava poco. Si era imbarazzati. Martin aveva spezzato con la sua presenza un po' svanita e trasognata quell'intesa goliardica dei tre amici. Adesso percepiva una stanchezza diffusa che le favoriva l'incedere di un silenzio interno e misterioso, contagioso anche per gli altri. Accostò la tempia al finestrino e chiuse gli occhi. Lungo il percorso le apriva solo per pochi istanti, cercando di capire a che punto del percorso fossero. Ma non riconosceva nessun tratto familiare della strada del castello. Forse avevano già deviato. Le luci ancora così fioche e così spettrali la riaddormentavano in quell'alternanza di piccole ispezioni tra le feritoie delle palpebre ad ogni lieve sobbalzo del veicolo, sulle spaccature più pietrose del suolo. Ma ci fu un punto preciso del percorso che la bloccò e le fece spalancare di colpo gli occhi, come scattate all'infuori per un segnale interno e marcato, inconfondibile. L'auto di Pier stava rallentando, appena dopo una grossa curva, e nello stesso esatto punto dove Martina aveva incrociato la villetta di quella donna bruna e misteriosa di quel mattino, il mattino in cui era stata così male. Ricordava ancora con precisione il cancelletto d'ingresso, la sua forma, gli strati di ruggine sulle punte aguzze e minacciose delle recinzioni, soffocate da rampicanti disordinati e vegetazione varia e scomposta a delimitarne i confini sfocati della proprietà, come stemmi araldici. La ragazza a quel punto del percorso cominciò a stare di nuovo male. Aprì con agitazione il finestrino e mise la testa tutta fuori, con la bocca aperta al lumino di quelle zone nascoste e graffi sottili e insidiosi del vento. Tutto bene, Colombina? Vuoi forse che rallenti ancora? No, Pier, se ti fosse possibile ti chiederei di andare via, al più presto da qui. Cerca di accelerare, ti prego. Ma che diavolo ti prendi adesso? Le curve non ti fanno più effetto come l'altro giorno. Alex e Bruno si guardarono alquanto straniti. Non riuscivano a capire cosa stesse accadendo. Puoi andare più forte, per favore? Va bene, signorina, come vuole. Si mantenga bene, però, eh? Pier a quel punto cominciò ad andare più veloce, aveva anche lui il vento in faccia e un sorriso entusiasta di sfida nel dimostrare il suo controllo assoluto nelle curve, che adesso tagliava con violenza sempre più strette e continue, mentre si stagliavano come bagliori terrosi e violenti al suo passaggio spedito, ma ancora perfetto. Adesso stai esagerando, Pier, datti una calmata, disse Alex, alquanto preoccupato da quell'eccesso improvviso di velocità a cui non era abituato. Non vorrai mica sfracellarci tutti qua su? E poi non si vede un accidente, Pier, vuoi calmarti? Va bene così, adesso puoi anche rallentare, Pier, va tutto bene, gli disse Martin. Mi sa che è passato. Adesso va un po' meglio, ma me lo spieghi cosa ti ha preso? Adesso vuoi comandare anche la mia guida? Guarda che se non ti sta bene puoi anche fartela a piedi, sai? Pier aveva cambiato espressione. Martin allora gli rispose per le rime, voglio vedere se hai questo coraggio, non ci credi forse? E rallenta, diamine, ti rendi conto che hai sfiorato la parete, inveì Bruno. Che diavolo stai combinando stasera? Allora, ragazzi, adesso la nostra dolce Martini scenderà dall'auto, va bene? Qualcuno di voi crede forse che non abbia il coraggio di farlo? Mi credete forse un codardo, un pauroso? Dite la verità, avanti, non abbiate timore, che io accetto la sfida. Piantala, Pierre, cerca solo di rallentare, sparare meno stronzate se ti riesce, gli disse Alex, inferocito. Pierre fu preso allora da una fuga incontrollata e frenò all'improvviso. La vettura si bloccò non appena intravide un rettilineo alquanto più ampio dove poter accostare. Allora, se a qualcuno non sta bene la mia guida, signori, possono scendere anche qui. D'accordo? Quando fai così sei insopportabile, te lo giuro, disse Martin, rabbuiata nel viso, già smarrito, mentre rialzava il finestrino alla sua destra. Allora sto ancora aspettando che tu scenda. In fondo, la prima che ha protestato sei stata tu. Pierre si curvò verso lo sportello di lato destro e lo aprì. La afferrò per un braccio con violenza e la scaraventò fuori dall'auto, con tutta la sua forza. Ma che diavolo fai? Disse Alex, che era rimasto pietrificato. Ti ha dato davvero di volta il cervello stasera? Signori, io direi di proseguire. Finalmente liberi da questo impiastro. Ma hai visto almeno dove diavolo ci troviamo? È fermo una buona volta questa dannata macchina, disse Bruno, fuori di sé dalla rabbia e dallo spavento, non appena vide che Pierre aveva accelerato e aveva lasciato la ragazza in un angolo. Martini intanto si era appena resa conto che la macchina stava riprendendo a camminare senza di lei. All'inizio pensava ad una semplice bravata di Pierre per farsi bello e misterioso davanti agli amici. Ma quando si accorse che Pierre si allontanava sempre di più, senza più fermarsi, cominciò a tremare forte, cercando di rincorrere le luci dei fari posteriori, che intanto le si sbiadivano davanti agli occhi, diventando sempre più piccoli e più sfocati. Nonostante tentasse di accelerare e fino a svanire del tutto alla sua vista, oltre la sequenza intrecciata delle curve successive. Adesso era rimasta sola. Pensava che forse Pierre sarebbe risalito alla prima rotonda e l'avrebbe ripresa, dopo un paio di giri locamboleschi, raggiungendola poi di spalle, con una sgommata sonora, una delle sue. Pensò di rimanere lì, in attesa, senza spostarsi. Le gambe le tremavano ancora. Le tremavano così tanto che non riusciva più a camminare senza sbattere contro le pareti in tuffo delle strade. Era un punto dove non c'erano più case, solo un'insegna arrugginita con la scritta di una piccola frazione. Borgo San Federico. Martina aprì gli occhi e si trovò di lato la stessa insegna, ma era ancora seduta nella stessa auto di Pierre, mezza assopita, con le voci tranquille dei tre amici che discorrevano fra di loro. Era stato un sogno. Adesso guardava Pierre che fumava e parlava piano con Alex, mentre tagliava le curve della strada con una calma invidiabile, sicuro e padrone di sé, sorridendo alle parole basse degli amici e guardandola poi di striscio, come una piana improvvisa, dopo un'altura.